America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Well, we're going to be releasing more information, and I think it's fair to say we've already met the standard of disclosure of past presidential candidates like Mitt Romney and President Obama. Bene, Hillary Clinton ha dunque scelto la trasparenza, darà le sue cartelle cliniche. Finalmente è il caso di dire, perché chissà perché non ha detto fin da subito che aveva un po' di tosse, una bronchite, oppure addirittura la polmonite, invece di creare questo mistero che ha insospettito tutti. Lo stesso, tra l'altro, ha deciso di fare Donald Trump. Anche lui darà le sue cartelle cliniche. Sentiamolo. This last week I took a physical and I'll be releasing when the numbers come in. Hopefully they're going to be good. I think they're going to be good. I feel great. Trump, che tra l'altro non ha attaccato Hillary su questa cosa. E beh, è chiaro che non l'attaccava, l'aveva messa in difficoltà prima, nel momento in cui Hillary, come dire, dà l'impressione di non aver detto tutta la verità. Beh, Donald Trump non va ad attaccare una donna malata, tiene le distanze e dice: darò la mia cartella clinica. Tra l'altro in questa dichiarazione dice: beh, adesso sto aspettando, ho fatto le analisi pochi giorni fa, aspetto i numeri, spero che vadano bene, di sicuro, dice, mi sento benissimo. Bene, questa è stata un po' la sceneggiata sulle malattie, ma c'è un problema di fondo, perché questa corsa elettorale, che è sempre stata complicata, si ingarbuglia ancora di più, perché Hillary appare debole, perché Trump cerca di recuperare, c'è poca chiarezza. Aggiungiamo a questo che Barack Obama è anatra zoppa, quindi non è che abbiamo dei riferimenti di certezza nel presidente degli Stati Uniti. Anatra zoppa vuol dire che è entrato in quel periodo in cui di fatto è in uscita e quindi potrà decidere molto poco. A fronte delle incertezze politiche americane, che sono possibili, del resto siamo in un anno elettorale, quindi le incertezze sono possibili, c'è un problema di mercati. Avrete visto come sono andati su, giù, saliti, preoccupazione, c'è un problema per le aziende. Perché? Perché sia mercati che aziende fino adesso sapevano di poter contare su un punto fermo, visto che la politica era incerta, e cioè la Federal Reserve, la solida ancora di certezza che riusciva negli anni ad alleggerire le pressioni dell'incognita politica. Ecco, eppure, proprio nel momento in cui ci sarebbe più bisogno di una barra dritta per la guida economica, ecco che la Banca Centrale Americana è assente. Peggio, direi, è un divaga. Un divaga come potrebbe essere Donald Trump quando cambia più volte posizioni sullo stesso argomento. Non sa decidere, manda segnali contraddittori. E insomma, ma questa Fed i tassi li vuole alzare o no? Perché poi è questa la domanda di fondo. Sentiamo. To the extent that the effect on inflation of further gradual tightening in labor market conditions is likely to be moderate and gradual, the case to tighten policy preemptively is less compelling. Frase chiave di ieri. Lei, il Brainard, membro del board del consiglio del Federal Reserve, ha detto ieri in un discorso, dice, beh, in qualche modo, visto l'effetto sull'inflazione di un mercato del lavoro che si restringe, le condizioni per una stretta sono meno convincenti. A quel punto i mercati sono partiti, un giorno la Fed fa piangere i mercati, l'altro giorno li fa sorridere, e quindi di fatto ci ha detto che negli incontri del Federal Open Market Committee, del Comitato Monetario della Federal Reserve, che si terranno 20-21 settembre, di aumenti non se ne parlerà. Eppure, poche settimane fa, la signora Janet Yellen, il presidente della Fed, il cui potere per autonomia, per gli strumenti che ha a disposizione, è secondo solo a quello del presidente degli Stati Uniti, aveva dato segnali opposti, aveva creato confusione, agitazione sui mercati. E dunque, insomma, viene fatto di chiedersi, ma il potere c'è o non c'è? Oppure c'è, ma non si vede? Ecco, questo è il punto centrale, perché questa doppia incognita americana, politica ed economica, non aiuta nel momento in cui il mondo intero cerca disperato segnali di leadership. E a giudicare dai segnali e dai messaggi che giungono da questa costa atlantica, da cui vi parlo sempre, beh, devo dire che dovremo abituarci a convivere con l'incertezza per almeno qualche mese, cosa, attenzione, che non era mai successa prima, perché la novità in questa mancanza di leadership americana sta nell'avere personaggi chiave per i destini del paese, diciamolo, per i destini del mondo, che non sembrano in grado di decidere, meglio ancora, di capire l'importanza della trasparenza. I was supposed to rest 5 days, that's what they told me on Friday, and I didn't follow that very wise advice. So I just want to get this over and done with and get back on the trail as soon as possible. Ecco, arriviamo a Hillary Clinton. Piccolo esempio. Hillary sapeva dal suo dottore personale di avere la polmonite da parecchi giorni, ma nonostante ci fossero insistenze per fare chiarezza sulla sua salute, soprattutto da Trump ma anche da altri, diceva sempre di stare benissimo, anche quando stava già male. Devo dire, lei per prima, dopo essere passata attraverso lo scandalo delle email, dove diceva che non era successo niente, poi abbiamo visto che ce n'erano 45.000, peggio, diciamo, quello del marito con Monica Lewinsky, dovrebbe saper bene che le bugie hanno le gambe corte. Non c'è dubbio che da questa vicenda della malattia inesistente, Hillary, che sembrava avviata così, veleggiando verso una vittoria, a novembre ne esce male. Rispunta l'ipotesi Trump, che nel frattempo è riuscito a dimezzare il suo vantaggio. E arriviamo a questo: se la Fedion divaga, Hillary opaca, beh, Trump, che se dovesse essere l'alternativa, sarebbe un po' come andare sulle montagne russe senza cintura di sicurezza. Cosa che ci porta a questa doppia incertezza, questa doppia incognita americana di cui non abbiamo bisogno. E torniamo alla Fed, che in questo momento è l'unica che potrebbe avere, come dire, il destro per poterci dare sicurezza. Beh, diciamo che dobbiamo augurarci che la signora Yellen si accorga di questa necessità di trasparenza, che superi questo complesso di non aumentare tassi di interesse prima di un'elezione per la paura che un aumento, che sarebbe comunque infinitesimale, possa sconvolgere i mercati globali. Se avesse leadership invece di incertezza, i mercati la seguirebbero, ma sembra confusa. Che ci dia dunque almeno quel pezzetto di sicurezza che ci spetta, che la smetta di zoppicare con la politica. Essendo un'ottima economista, dovrebbe sapere che mercati, investimenti e consumi soffrono più per la scarsa trasparenza che per gli aumenti dei tassi di interesse. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la canzone del giorno, siamo in incertezza, quindi cosa vi propongo? The Sheepdogs, I Don't Know. Non ne so niente. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!